24 di Giovanni Minoli. 1.848.658 schede e quasi 4 milioni di euro incassati, per un risultato che suona come un plebiscito per Matteo Renzi, che si attesta oltre il 70%. Posso restare seduto in disparte. A qualche anno luce di distanza c'è Andrea Orlando con il 19,50% e con 357.526 voti. È un tuo diritto. Io guardo e sto zitto. Una vittoria molto ampia di Matteo Renzi, con il quale mi congratulo. Io ci provo. Renzi ha detto che ci dobbiamo vedere presto. Mi fa sperare che abbia imparato la lezione. Ricominciamo. Buongiorno, bentornati a Mix24. Renzi dunque ha stravinto le primarie. Michele Ansaldi, deputato del PD, segretario della Commissione di Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, è stato il suo stratega della comunicazione. Onorevole Ansaldi, buongiorno. Buongiorno. Renzi ha cambiato consulente ed è tornato alla vittoria. Insomma, lei è stato il Remida di Renzi. Beh, non esageriamo il Remida. Io penso di aver fatto una sorta di cerimoniere. Ho semplicemente provato a mettere ordine in una tavola ricchissima dove però c'era un orario di fisso per mangiare, non c'erano le posate, non c'era niente, mi pare di capire, insomma. Senta, sarà comunque la sua mano nel mettere ordine, come minimo si è visto. È stato un Renzi anche meno cattivo, meno arrogante, più inclusivo. Mettere ordine ha significato anche quello, un po' merito suo. Beh sì, vi ho detto, il lavoro di una squadra che ha deciso che bisognava cambiare passo, ce l'hanno detto gli italiani il 4 dicembre e ci si è provati, e forse appunto la ricetta funzionava, bastava appunto darsi degli orari, cercare di mangiare alcune cose in alcuni momenti e la cosa ha funzionato. Senta, l'uomo solo al comando è morto per sempre, eh? Ma l'uomo solo al comando secondo me non c'è mai stato, il problema è che non lo sapeva comunicare, che vabbè. È ancora peggio, perché se non era da solo al comando e comunicava che era da solo, come può capire è un doppio errore. È gravissimo, ma su cosa ha lavorato soprattutto lei oltre a mettere ordine e farlo mangiare bene? Ah, guardi, secondo io ho lavorato che bisognava cambiare il ritmo, cioè Renzi faceva e lui fa ancora, ma non le comunica, troppe cose, esatto, al giorno. Sì. Per cui i ritmi della giornata, del lavoro, della comunicazione sono quelli. Se si fanno sei cose, tutte e sei sono da conferenza stampa, esatto, inevitabilmente cinque le devi lasciare da parte. No, certo. Senta, quindi insomma, secondo lei il passaggio da l'io al noi c'era già, ma bisogna parlarne adesso. Bisogna parlarne e farlo comprendere, capire qual è per il bene del paese, perché sono tutte cose che fanno bene al paese, qual è però la cosa migliore da comunicare in una giornata per motivare le persone e capire che devono seguirci in quell'iniziativa. Su quella che cosa. Senta, onorevole Ansaldi, infatti in questa distribuzione di compiti anche lei ha parlato spesso, ha parlato sui temi più duri come per esempio la RAI, un po' il suo cavallo di battaglia. C'è stata una divisione di compiti quindi anche nel comunicare. Ma guardi, la divisione dei compiti, la RAI purtroppo, lei come sa, io sulla RAI ho dei dubbi, però per dire, la RAI per la prima volta secondo me domenica ha fatto la RAI e alternandosi sulle varie reti ha seguito queste primarie che, per quanto sono state di un solo partito, hanno affascinato l'Italia e ha fatto praticamente 2 milioni di ascolto sulle tre reti più la 7, 3 milioni. Questo congresso di un partito alla fine è stato seguito da 3 milioni di italiani e addirittura la RAI, con una cosa inedita, la prima serata di Mannoni su Rai 3, ha fatto un milione con informazione politica, appunto. Vabbè, non è pazzesco come dato, se vogliamo pazzesco, proprio però, parlare di numeri. Vabbè, lei senta. Pensa che però veniamo da una specie di trasmissione di intrattenimento che costa milioni e milioni di euro per gli italiani e sta nella bufera. Vabbè, dei tetti, questo dei d'accordo. Stipendi, senta, comunque, Comunque resta il fatto che il 4 di dicembre Renzi sembrava confuso, incerto, contraddittorio, vado, resto, cioè sembrava un uomo che aveva perso il filo del suo discorso. Cosa lo ha fatto rinascere? Di nuovo solo mettere ordine? No, secondo me Renzi è ritornato al Renzi iniziale, cioè al Renzi che si candida alla provincia di Firenze, Renzi che si candida a sindaco di cioè Firenze. Un po' di umiltà anche. Di umiltà è ritornare per le strade vere, per le piazze, andare a trovare i preti coraggiosi di Scampia. Se lei fa un giro... Ecco, no, volevo chiedere proprio questo. Girando l'Italia, Renzi ha dato l'impressione di aver scoperto delle cose che sarebbe stato utile scoprire prima, quando stava al governo, è così? Quello senz'altro, guardi, entrare in quei palazzi, io mi ricordo quando ero ragazzino, c'erano i primi Verdi, la scommessa era entrare in quei palazzi e non cambiare, entrare in quei palazzi e non cambiare è veramente difficile, perché perdi la misura con la realtà. Esatto, fine, quindi pochi palazzi... La domanda stupida, quanto costa il latte, forse era più indicativa, certo. Tu non sai più quanto costa il latte, certo. Non sai più quanto costa l'autobus. Quanto costa il latte? Il latte costa 1,60 di buona qualità e fresco. E l'autobus? L'autobus 1,50 per se non sbaglio 75 minuti o addirittura ora due ore. Promosso, Anzaldi. Senta, ma quali saranno le linee guida del nuovo racconto renziano? Secondo me Renzi deve continuare, se io potessi suggerirgli, continuare a... È il suo mestiere adesso. Come? È il suo mestiere adesso, no? Ma forse era, le primarie sono finite. Ho capito, ma ci sarà un continuare. Ma io vorrei continuare, come diceva lei, a dedicarmi alla RAI, che ha parecchia strada davanti. Molta. Senta, sì. Senta, quindi dallo storytelling del sogno a uno storytelling della realtà già sarebbe un passo avanti, e della verità. Secondo me sì, il problema è che Renzi non può farlo da solo, ha bisogno dei mezzi di comunicazione per dirle delle immagini bellissime, forse la più bella della campagna elettorale, per me che non sono giovanissimo, che però era l'occasione per spiegarla ai giovanissimi, è il regalo che ha ricevuto di uno dei pochi minatori sopravvissuti alla strage di Marcinelle, sì. la lanterna, sì. una strage dove sono morti, se non sbaglio, 260 minatori, ne sono rimasti vivi solo 10. Noi l'abbiamo raccontata tante volte, la storia siamo noi. L'occasione per spiegare, per ritornare sui quindi sono lo storytelling della realtà, che partono da storie vere e della verità. Ma il politico deve dire la verità o deve illudere sempre? Renzi diceva la verità, perché è rottamatore, e secondo me deve tornare a quello, soprattutto in un mondo dove prima si dicevano delle bugie per convenienze elettorali o per convenienze economiche, peggio. Adesso si dicono anche in maniera insensata le famose fake news, sì. Semplicemente su dei dogmi decisi da stregoni vari. Senta, secondo Anzaldi, me è quella la forza. Senta, Anzaldi, ma questa breve attraversata del deserto, brevissima, che cosa ha insegnato di profondo a Renzi, secondo lei, che l'ha accompagnato? Breve ma intensa, mi scusi. No, ho detto breve, non ho detto che non era intensa. Ho detto breve. Io non so chi in Italia ha fatto una traversata del deserto come l'ha fatta Renzi, senza neanche uno stipendio, senza niente. Vabbè. Però lo ha segnato sicuramente, come ci ha segnato tutti. Siamo rimasti senza segretario, siamo rimasti senza guida in un momento complicato per il paese. Quindi lei dice che riuscirà a passare dall'io al noi, anzi a raccontare il fatto che è vero che lui è sempre stato noi e non io, come dice lei? Secondo me c'è, se lei vede già le immagini della campagna e della notte del risultato, sono tutte noi. Però Martina lo vedevo sempre in secondo piano nelle inquadrature. Ma nelle inquadrature forse è difficile, anche perché è molto alto, e quindi diciamo realisticamente dovrebbe stare dietro, ma se lei fa il conto delle trasmissioni, ad esempio Renzi su Rai 3 è quasi inesistente. Vabbè, quella sarà una scelta politica, immagino. Una scelta politica, Renzi, su Rai 3? Certo, è una scelta politica. Pure no, di Renzi, voglio dire. Senta. Però sono, fanno parte del noi. Certo, ma è vero che lei crede meno alla televisione di più alla comunicazione digitale, Anzaldi? Ma sa, io... No, le chiedo, è vero o no? È vero, ma al di là di quello che credo, io leggo i numeri e la gente si informa lì. Non solo, non solo, i numeri delle televisioni sono ancora abbastanza impressionanti. Informazione. Infatti l'ha citati lei. Senta, su questo terreno, inseguite un po' i grillini vi hanno insegnato qualcosa, direi? Beh, ci hanno insegnato moltissimo, il Casaleggio su questo è stato geniale, è assolutamente. Se lei si ricorda, i primi grillini sono diventati secondo partito italiano, una forza vera, portando dei ragazzini che hanno preso solo 30 voti alle volte in Parlamento, senza mai essere andati in televisione, mai. Certo, esatto, era la loro strategia. Senta, i giovani però non riuscite a convincerli, perché? Io ho visto queste file delle primarie, capelli bianchi quasi sempre, quando c'erano. Ma i giovani, secondo me, uno, perché non abbiamo il mezzo di comunicazione che adottano i giovani, la domanda che mi diceva prima, il digitale, la rete, eccetera. Ecco, secondo, ma allora perché... quando sarà lanciata, Bob, la piattaforma digitale del PD che avete annunciato? Beh, io spero che, se non oggi, domani, Renzi faccia la prima riunione su questo per capire come si va avanti su questo. Senta, ma Berlusconi, secondo lei, è ancora un comunicatore efficace? Berlusconi è sicuramente un comunicatore ufficiale e un comunicatore efficace. Secondo me sì, perché è legato alla realtà. Si ricordi la foto dell'agnellino sotto Pasqua? Sì, assolutamente. Criticata in segreto, ma nessuno apertamente ha avuto il coraggio di dire qualcosa, perché l'agnellino è l'agnellino. Esatto, ma il governo adesso si deve sentire protetto dal Renzi segretario? Protetto e pungolato soprattutto, perché risolvere le cose degli italiani. Ma pungolato prevale su protetto? Deve fare le cose che sono utili a tutti gli italiani. Senta, lo mettiamola in un altro modo: è finita per sempre l'era degli Enrico stai sereno, oppure Gentiloni stai sereno, insomma? È un governo di coalizione, quindi Gentiloni, che è un nostro compagno di partito, è il nostro più vicino amico, ha bisogno di un partito che lo spinge a fare delle cose che la coalizione non vorrebbe fare perché la pensa diversamente. Quindi è un gioco delle parti che sarà vitale per tutti e due, visto che poi tra poco o non poco andremo a delle elezioni. Senta, poi ne parliamo un secondo. Renzi, comunque, l'ha detto un po' anche lei, al governo aveva una comunicazione che puntava su un'idea al giorno, ogni giorno un'idea, un metodo che ha trasformato in propaganda anche le cose buone che faceva. Cinque idee al giorno, e secondo me questo trasformava in propaganda anche le cose buone che faceva, perché si confondeva tutto, era tutto uguale. Un errore, è stato un errore vero quello. Certo che è stato un errore, perché poi sa, la gente non puoi dare sempre solo l'uovo, prima o poi la gallina gliela devi fare almeno a vedere. Esatto. Insomma, adesso realtà, concretezza e verità, ho capito bene? Ho riassunto la linea. È così. Ecco, sulla legge elettorale l'apertura dei grillini è interessante oppure no, Anzaldi? Dei grillini lo dice lei, mi scusi, perché se i grillini avessero fatto 3 righe di comunicato dicendo l'intervista rilasciata dal presidente Di Maio rappresenta l'idea di tutto il Movimento 5 Stelle, compreso Grillo, mi pare che sia un portavoce autorevole Di Maio, oppure no? Non lo so. E come si fa a saperlo? Come si fa? Titolo di portavoce. Ma come si fa a saperlo? Appunto, c'è una cosa che si chiama comunicato stampa, che si dice l'intervista è Insomma, lei non sa se è un pensiero di Di Maio o un pensiero dei grillini. Parlando con lei adesso. Senta, ma c'è una maggioranza per fare una nuova legge elettorale, allora, secondo lei? L'ultima volta che si è provato che c'è in commissione non c'era, è stata nella prima commissione al Senato e non c'è stata, si è verificata una nuova maggioranza. Mettiamo in un altro modo, questa nuova maggioranza una legge elettorale vuol fare o no? Se Secondo me, come dice Renzi, fanno Medina, intervistati da lei dicono sì, poi quando andiamo dalla non la vogliono fare per tanti motivi. Ma mi dica una cosa, se, allora facciamo così, le elezioni anticipate lei a quanto le dà? Ma per adesso non le do, per il semplice motivo che non c'è la legge elettorale. Vabbè, poi, però se non ci sarà mai, in qualche modo si vota poi. No, mai, ancora c'è tanta strada. Dopodiché quando ci sarà la legge elettorale ci saranno i sondaggi, le cose e il bene del paese. Lo deciderà il Presidente della Repubblica quando è il momento migliore per il paese. D'accordo, senta Anzaldi, uno dei motivi però, se ho capito bene, che spinge Renzi a accelerare, volere le elezioni è per poter andare in Europa a trattare con un governo forte, almeno forte come gli altri che saranno appena usciti dalle elezioni, e quindi non ci può essere un grande squilibrio di forza. All'inizio delle legislature tutti i governi sono forti, anche quello italiano dovrà esserlo, no? Sì, certo, però... Sa, no, è uno dei motivi, questi le chiedo, dell'insistenza? No, perché questo governo con un PD compatto che lavora in maniera... È sufficiente, lei dice. È sufficiente. Sì. Senta, però sembra che... Ricordi che il Presidente del Consiglio è l'ex ministro degli esteri. Lo so bene. Senta, sembra però... Renzi sembra incalzare in questo stimolo costruttivo, come dice lei, incalzare in modo particolare i due tecnici Padoan e Calenda. Ci sono forti dissapori fra di loro? No, non ci sono dissapori. Beh, sull'Alitalia però, sull'Alitalia la soluzione araba che era stata sponsorizzata da Renzi mi sembra che non ha funzionato. Beh, non ha funzionato e bisogna vedere, è stata sponsorizzata, gli arabi come lei sa ci hanno messo delle belle cifre. E ci hanno messo belle cifre fare, però. Gli arabi l'hanno fatto. Se beh, poi sul management le no. Fare, non le hanno fatte, è colpa di chi dirigeva l'Italia. Il governo erano quelli messi dagli arabi infatti. Non solo ma anche. Senta, a proposito di comunicazione, Renzi vedrà Obama a Milano mi sembra, ma ha chiesto di incontrare Trump quando andrà in Sicilia per il G7? Ma come, certo che l'ha chiesto, come lei sa abbiamo pure chiesto, è uscito sui giornali di incontrarlo addirittura in America. Ha sempre detto no, non risponde. Vengono gestiti dalle varie segreterie. Ma insomma ha detto no o non ha risposto ancora? Ma sinceramente non lo so. Inventerei. Senta, in Puglia ha vinto il governatore Emiliano, contate su di lui per riconquistare il sud, lui diceva nell'introduzione, speriamo che abbia imparato la lezione. Scusi, in Puglia ha vinto il PD pugliese, sì, vabbè, Emiliano okay, come il PD pugliese, cerchiamo di capirci. Ha perso a Bari e ha perso a Taranto, che è una città simbolo perché è la città dell'Ilva eccetera eccetera, e io conosco i miei colleghi pugliesi e so ad esempio che lavoro hanno fatto nell'agricoltura, nella parte di forza, quindi lei dice non ha... voti non sono di Emiliano. Non sono Emiliano. Senta, le faccio un'ultima domanda, Anzaldi, la ringrazio. Renzi ha più volte annunciato / promesso un libro per raccontare la sua verità anche sul famoso Stai Sereno. Arriverà questo libro? Il libro credo che stia per uscire, l'ho supplicato io di non farlo uscire 15 giorni fa perché volevo che si dedicasse di più alle primarie del PD. Che e quindi è in arrivo, diciamo, è pronto? Beh, sì, secondo me. E secondo lei sarà sorprendente? Sarà un libro interessante da leggere. Vabbè, come può essere stata interessante la vita di un Presidente del Consiglio così giovane e così pieno di forze e con una vitalità che è stato il suo peggiore danno. La vitalità il suo peggiore danno è un bello simoro, mamma mia. Che abbiamo detto prima. Sì, sì, no, molto interessante. Infatti, certo. Grazie Anzaldi, buon lavoro. Non ho capito lei cosa farà, perché continuerà a occuparsi della comunicazione di Rai, di che cosa? Beh, la RAI, e spero che mi affidino pure di vigilare sulla comunicazione di Radio 24. Ah sì? Ah, perché bisogna vigilare molto, secondo lei? Beh, sa, con i colleghi che ha accanto. Sono pericolosi. Come va a finire? Sono pericoloso. Scusi, Anzaldi. Pietrangelo, butta fuoco. Chiedo scusa, e come va a finire con Campo dell'Orto? Campo dell'Orto, adesso vediamo. vediamo. Adesso vediamo. Dopo una vittoria come questa. Grazie Ansaldi. Allora Pietrangelo, che ci fai ascoltare? Eccola. Bravo per Ansaldi. C'era quello che volava e volava oggi in metropolitana, poi c'era quello che scavava e scavava, poi c'era quello che se ne stava in equilibrio, insomma tutti gli stravaganti riuniti in una mattina di dopo ponte. Ha chiamato il barone di Münchhausen, ha voluto questo brano da dedicare alla palla del proprio cannone con un messaggio. Spariamo? Mario, fa' attento a fare la bolla che qui vigilano su di te. Soprattutto Ansaldi. Ansaldi è stato preciso. Questo l'ho sviato da capo. Ho capito. Vabbè, allora io la bolla che ci abbiamo parlerò di una persona che hai evocato tu con Ansaldi, cioè di Trump e anche di Putin. Prima però questa. Vuoi sentirla cadere e le porgi la faccia, ti sembra cotone, ti sembrano piume. Nessun tipo di sforzo, non fa neanche una piega. C'è chi allora, viaggia abbastanza, ma tanto la neve, lei se ne frega. Allora, va bene, questo è un grandissimo pezzo di Ligabue, la neve se ne frega. E non ce ne possiamo invece fregare di quello che accadrà oggi da seguire tra Putin e Merkel e poi tra Trump e Putin. Riepiloghiamo, Angela Merkel va a Sochi. Si incontra con il presidente della Russia, è un incontro molto importante, pensate che non si vedevano da 2 anni e non è pensabile che la Germania e la Russia non si parlino, non si vedano, certo. da 2 anni, sono 2 paesi che si guardano, si annusano e di volta in volta nella storia determinano le posizioni e i fatti, gli avvenimenti di quel grande vasto spazio immaginario e reale che è l'Eurasia. L'altra cosa importante da seguire è la telefonata che ci sarà, è stata confermata poco fa anche dal Cremlino, tra Trump e Putin. Va da sé che c'è una serie, ci sono una serie di dossier molto importanti. Tra Siria, Nord Corea, tutti, quelli che, di cui parliamo tutti i giorni praticamente. Ecco, però una cosa che mi ha colpito molto invece è come è fallito l'incontro tra la Meyer e il Juncker. Juncker, che micidiale. È stato proprio un fallimento totale. Sì. Non so se sono arrivati alla frutta. Cioè, la frutta sicuramente sì, ma sono arrivati alla frutta, quella metaforica. Nel caso di Juncker saranno arrivati anche alla mazza caffè. Okay. Secondo me la posizione dell'Europa si sfalderà perché non ci sarà un'unità quando si prenderanno i singoli punti del dossier, a mio avviso. Questa è la cosa da attendersi. Poi la posizione della May è molto dura. Molto dura, mi pare che non vuol parlare di soldi, soprattutto. No, ma in casa sua, cioè nel Regno Però Unito, c'ha le elezioni, quindi. Nel Regno Unito, i conservatori sono convinti che bisogna fare la hard Brexit, cioè non bisogna stare a trattare molto. D'altronde, leggevo l'altro giorno che tutti quelli che dicevano vabbè, ma cosa succede se non fanno un accordo? No problem, niente. Ragazzi, si lavora con le regole del WTO, quindi lasciamo stare. Tra poco, per i gialli della storia, faremo un viaggio nel mondo dei virus. Dalla spagnola, che fece migliaia di morti negli anni della prima guerra mondiale, fino a Ebola, alla polio, arrivando fino all'AIDS e la SARS. Tra pochissimo. Intanto, per chiudere, Gloria Guerrera oggi cosa ci propone? Oggi una canzone per chi non sa scegliere tra avere orologi sbagliati o non averne affatto. Cerca la zuffa per l'armonia. Blu Vertigo, l'Assenzio. Il mondo è così privo d'amore, io disimparo ad odiare. In fondo se perdi il controllo, non fai niente di male. Io cerco lo scontro, ma conosco la pace. Pensi a quello che farai e a quello che smetterai di fare.